Letture di Radio 24. Bombe Molotov lasciate a casa del senatore PD Stefano Esposito, favorevole alla TAV. Minacce, intimidazioni e pedinamenti a Massimo Numa, il cronista della Stampa che segue le vicende dei Notav. Da più parti ormai le azioni dei Notav vengono paragonate ad atti di terrorismo. Ma quello che stanno subendo Stefano e Massimo si chiama fascismo, commenta Marco Imarisio in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. La fissità di quelle immagini è la cosa peggiore. All'inizio è tutto a posto. L'insegna di una strada, la facciata di una villetta di campagna, il suo ingresso. Le auto in cortile, un uomo che porta il cane a passeggio. Poi si capisce. Quell'uomo è osservato da qualcuno che gli vuole male. Il messaggio è feroce. Non ci sono ripari sicuri per te, gli stanno dicendo. Non hai segreti. Se e quando succederà qualcosa a te oppure alla tua famiglia, dipende solo da noi. Quell'uomo non è un criminale e neppure un pentito di mafia. Si chiama Massimo, è un bravo giornalista. Da tempo vive sotto scorta. Lo sorvegliano, gli invadono la posta elettronica, gli mandano pacchi bomba. Adesso passiamo a un altro caso. C'è un uomo che trascorre la settimana a Roma per lavoro e lascia la sua famiglia nella città dove è cresciuto. 3 bambini, 9 e 6 anni, 3 mesi. Si chiama Stefano, fa il senatore. Gli hanno fatto trovare qualche bottiglia incendiaria sul pianerottolo di casa. Non all'esterno del palazzo, proprio dentro, sulla porta. In estate gli hanno spedito una lettera con l'indirizzo della scuola calcio dei figli, dell'asilo, gli orari di entrata e uscita. Queste cose accadono a Torino, non da ieri. Massimo è il cronista che segue le vicende dei Notav per la Stampa. Stefano è il primo esponente della sinistra ad aver denunciato una deriva di quel movimento oggi sotto gli occhi di tutti. Torino è la capitale degli scettici sulla TAV, di quelli che sostengono l'inutilità dell'opera con un fervore da crociata. Tutto legittimo. Diciamo, essere Notav fa anche molto figo. Il magistrato passionario in pensione, il sociologo resistente, il meteorologo da talk show si fanno sentire. Sui giornali, in televisione, nei salotti cittadini. Li sanno a memoria, dati, studi naturalmente di parte, e scordano sempre una parola di condanna. Per le violenze, per un minaccioso restringimento della libertà personale diventato l'unica strategia di un movimento ormai in mano a gente incapace di separare le pulsioni peggiori dalla protesta. Il fervore rende distratti. Torino è sempre stata fiera della sua tradizione antifascista. Quello che stanno subendo Massimo e Stefano si chiama fascismo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco Imarisio «Non si sentono parole di condanna per le minacce fasciste dei Notav» dal Corriere della Sera del 14 gennaio. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, Gian Antonio Stella, sulle pagine del Corriere della Sera, aveva raccontato la situazione assurda delle ferrovie calabresi, dove i treni vanno ancora a gasolio. Ma anche nel ricco nord, proprio in quella Brianza dove il regista Paolo Virzì ha ambientato la sua storia di capitalisti ignoranti e privi di scrupoli, i pendolari non se la passano molto meglio. Ne sanno qualcosa i passeggeri che ogni giorno viaggiano con Trenord, società di trasporto locale nata dalla fusione tra le famigerate Ferrovie Nord e la divisione regionale di Trenitalia. Un'esperienza quotidiana fatta di ritardi, treni sovraffollati, personale viaggiante spesso maleducato e incapace di risolvere anche il più piccolo dei problemi. Figuriamoci quando sui binari arriva l'inconveniente che non ti aspetti. Varese. Attenzione, la circolazione dei treni sarà interrotta per la presenza di una scimmia sui binari. Quando l'altoparlante della stazione di Busto Arsizio, Varese, ha dato questo annuncio, l'incredulità si è diffusa tra i binari. Ma in pochi hanno avuto voglia di ridere, perché, per quanto insolito, questo è solo l'ennesimo problema che colpisce il trasporto ferroviario tra Varese e provincia e Milano. Treni costantemente in ritardo, spesso sporchi e segnati dall'incuria, che provocano disagi alle migliaia di pendolari che vi salgono ogni mattina. Se si telefona al numero verde per sapere il motivo del ritardo, le risposte sono sempre le stesse. Guasto del treno, lavori di manutenzione, traffico, binari congelati e via così, racconta Michela, pendolare. Nel dicembre 2012, Trenord spese migliaia di euro per comprare un nuovo software per programmare i turni dei macchinisti. Il risultato? Circolazione impazzita, macchinisti con due turni in contemporanea e il ritorno al precedente sistema operativo. Ma il problema peggiore resta la mancanza di informazioni. Non si sa mai se il treno è in orario, quando arriverà e perché non è ancora arrivato. Su Facebook è nato un gruppo che si chiama Trenord Victims, dove si invitano tutti coloro che subiscono disagi a raccontare la propria storia. E le storie non si sono fatte attendere. È giunta l'ora che le vittime di Trenord si facciano sentire. Non è possibile un comportamento del genere, si legge nell'incipit del sito. I racconti sono tanti, ma in genere simili. Dai ritardi di 317 minuti ai viaggi al limite dello svenimento, perché posto a sedere non se ne trova mai e si è costretti a stare in piedi tutti ammassati, sperando di arrivare presto a destinazione. Per non parlare di quando i treni si bloccano improvvisamente prima della stazione e alla pensilina bisogna arrivarci a piedi, camminando sui binari, col rischio di essere investiti. Francesco Ferrante, segretario lombardo della FIT CISL Trasporti, non nasconde la preoccupazione. La situazione è vicina al collasso, la puntualità è sotto al 70%, i posti per i viaggiatori continuano a essere tagliati e spesso, sulla linea Milano-Varese, vengono eliminate delle carrozze. Il personale che lavora sulle tratte non se la passa molto meglio dei viaggiatori. Sono sempre più frequenti le aggressioni ai lavoratori, ingiustamente accusati del degrado dei convogli. Per la cronaca, la scimmia sta bene ed è tornata a casa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Greta Munari, Niente treni per Milano, c'è una scimmia sui binari, dal venerdì di Repubblica del 10 gennaio. Sempre più spesso, durante un concerto, il pubblico, anziché concentrarsi su quello che sta vedendo, si limita a fotografare o a filmare. E questo avviene con ogni altro evento che riteniamo di voler imprimere per sempre nella nostra memoria. Ma fotografare non aiuta a ricordare meglio. Al contrario, secondo una recente ricerca, l'atto di scattare una foto attiverebbe un effetto di dimenticanza diretta. Ho sempre fatto un sacco di foto, anche prima che fosse possibile tenerne 4.000 sullo smartphone. Mi piaceva il fatto che scattando una foto riuscissi a celebrare la distanza tra il mondo e me. Le mie foto erano artefatti della mia esperienza, indiscutibili, irriducibili prove di quel che vedevo. Mi servo ancora di questa giustificazione romantica per la mia insistenza da paparazzo nel ricercare la foto perfetta, anche se mi sento sempre più infastidita dalle detestabili abitudini fotografiche della gente. Magari non ho il diritto morale di incavolarmi quando rovinano i concerti alzando i loro telefoni luccicanti per registrare video inguardabili e foto sfocate, ma alla fine lo faccio lo stesso. Mi sale lo schifo quando la gente posta su Instagram le foto della loro frittata perfetta o carica su Facebook le foto di una cena noiosa. E ai musei mando occhiate fulminanti ai turisti che si muovono freneticamente da un dipinto all'altro per fotografare le opere d'arte senza nemmeno alzare gli occhi dagli schermi dei loro giocattolini. So di essere pesante, ma mi sembra che la cosa abbia qualcosa di vorace e ridondante, visto che si accumulano foto brutte che nessun altro guarderà più. So di essere colpevole come tutti gli altri. Al museo vedo cose di cui mi voglio ricordare. Un dipinto sinistro con un teschio, un lascivo Balthus che ritrae una giovane ragazza che si alza la gonna di fronte a un gatto, o un Cristo medievale particolarmente brutto. Quindi faccio delle foto, sperando che l'atto e la fotografia in sé mi permetteranno di ricordare bene quel che ho visto. Non è una cosa nuova. In tutta la storia, gli umani si sono serviti della tecnologia per ricordare quel che avevano in testa. Dalle tavolette cuneiformi in cui si appuntavano il numero di fasci di grano, alla Torah, ai papiri con la politica reale egiziana, ai diari personali, ci siamo sempre inventati dei modi per preservare informazioni riguardanti l'esperienza umana. Ma non è mai stato così facile o a buon mercato come lo è ora, un'epoca in cui puoi comprare un terabyte di spazio per un centinaio di euro e poi infilarci migliaia di foto che non riguarderai mai. In che modo questa accumulazione ossessiva di foto influenza la nostra memoria? I nostri cervelli assorbono molte più informazioni di quelle che abbiamo intenzione di tenere e operano un tipo di economia cognitiva che calcola costantemente quali siano quelle più utili da conservare nella nostra testa. Gli scienziati sottolineano da tempo un effetto di dimenticanza diretta, ovvero le persone tendono a dimenticare le cose che vengono presentate loro come non importanti. In uno studio del 2011, i ricercatori hanno scoperto che questo processo è favorito da Internet. I soggetti tendono a dimenticare le informazioni che sanno possono ritrovare su Google in un secondo momento. Anche se ho sempre pensato che fotografare migliorasse la mia capacità di ricordare luoghi, eventi, facce e momenti, a quanto pare la mia tendenza a tirare fuori la macchinetta fotografica starebbe solo sabotando la mia capacità di ricordare la vita. In un saggio uscito su Psychological Science di dicembre, la ricercatrice della Fairfield University, Linda Henkel, suggerisce che il solo atto di scattare una foto attivi l'effetto di dimenticanza diretta. Dai suoi esperimenti è emerso che i soggetti ai quali è stato chiesto di fotografare oggetti specifici in un museo hanno fatto più fatica a ricordarli di quelli ai quali non è stato permesso di usare la macchinetta fotografica. Quando la gente scatta una foto, manda un messaggio al proprio cervello dicendogli di non ricordare l'oggetto perché tanto la macchinetta lo farà al posto suo, mi ha detto quando l'ho raggiunta al telefono. Questa menomazione da foto non ha funzionato però quando ai partecipanti è stato chiesto di fotografare una sezione più piccola di un'opera d'arte. In quel caso, la gente ricordava sia l'oggetto nella sua interezza che il dettaglio, dimostrando che un focus specifico non esclude un'osservazione accurata dell'insieme. Forse non dovete impegnare tutte le vostre capacità cognitive per ricordare la festa di compleanno dell'amico di un amico, ma è comunque scoraggiante pensare che ci sia una possibilità di essere meno coinvolti nel mondo perché siamo troppo impegnati a catturarne il più possibile. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Rose Lichter-Mark «Fotografare non vi aiuta a ricordare meglio» dal magazine online Vice Italia.